Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Eccoci tornati qua questo sabato sera su Radio Wombat con Basement Records. Siamo tornati. Una lunga pausa per Basement Records. Ci è servito per rinfrescarci le idee, forse? No, io sono sempre confuso come lo ero l'ultima volta. Anch'io uguale, quindi non ci è servita a niente questa pausa. Non siamo migliorati, vi avvertiamo. No, le feste non ci sono servite a niente. Non ci hanno fatto bene per niente. Anzi, c'è stato malattia, disagio, influenza. No, disagio quello lo disagio sai, sempre, sì. Disagio è una delle parole chiave, quindi disagio ci deve essere sempre. E quindi anche sotto le feste. Però eccoci, allora, prima puntata di Basement Records per questo 2018 e anche in questo 2018 continuiamo a ricordarvi i modi per mettervi in contatto con noi e seguirci nelle nostre trasmissioni e nelle evoluzioni continue del nostro sito e della nostra radio che sta ribollendo. Ah, io palinsesto ormai mi sono perso. Non so più cosa c'è. È perché ci sono troppe novità e non riesci. Probabilmente non riesci più a stargli dietro con tutte queste novità che ci sono, no? Sì, sì, oppure è sempre il mio disagio che fa. Ti vedo contrariato. No, è il periodo, l'inizio dell'anno. Io carburo verso maggio. Sì, i primi 5 mesi li passo in. Sei ancora in letargo. In meditazione letargica, sì. Sì, sì, sì. Bene, dai, Anzi, no, bene, ognuno, vedi, io invece vado in letargo, vorrei andare in letargo d'estate, anche se ancora non ci sono riuscito. Vabbè, ma perché te c'ha dei motivi per apprezzare l'inverno? Sì, Capito? no, vabbè, C'è dai, ognuno ha la il suo momento montagna, di la neve. letargo, eh. C'è chi ce l'ha d'estate, c'è chi ce l'ha d'inverno. Che si fa? Si parte col primo Ma pezzo. ricordiamogli prima Ah i già, nostri, l'abbiamo detto, se ora ci no, tocca. dopo Allora, si lascia io le faccio cose quelli così a facili. mezzo. Allora, il sito wombat.blogs.org. E questo lo so. Lo Quelli sappiamo. difficili li fai te. Quelli difficili, anche la mail faccio No, la io. mail è facile, la posso fare io. Te Vai. fai quegli altri due. Quelli un po' così, eh. Quelli social. Qual è la nostra mail? La nostra mail è Ricordacela. postalwombat@insiberia.net. E invece i nostri canali social, per stare proprio lì ogni attimo a seguirci, No, questi non sono li su so. twitter.com/radiowombatfi. Sto ridendo, ma voi non capite perché, ma perché io vedo la faccia di Ginox. Va bene, e poi su facebook.com/radio-wombat-firenze. Siamo tutto un trattino, eh? È difficile, cioè vedi come sono più difficili. Il sito e la posta erano facili, il No, ma anche social è questo te lo dico. difficile. Anche se non mettete i trattini, lo trova lo stesso, eh? State tranquilli. Per forza, è difficile, Eh no, cioè no, è for dummies proprio. Lo trovi per forza. il nostro So che primo non ci ho mai pezzo. provato, Gino, ad No, andare sul io nostro voglio finire profilo, questa sul nostro fase. sito Questa Facebook. fase difficile dei social network, ogni volta mi imbarazza tantissimo. Vabbè, allora dalla prossima elimineremo questo lato informativo futile della. No, no, facciamolo e io continuerò a Ti dovrei fare tappare le il orecchie per quei disagiato 30 imbarazzato. secondi, dai. No, no, io pian pianino imparo. Mi dovete solo dare un po' di tempo, sono lento, ho detto a maggio sarò pronto. Ok, ci stiamo, ci stiamo. Se vuole partire subito con il primo pezzo, gli diamo un po' una presentata di questa nuova infornata, Questa nuova di questa nuova infornata infornata è a caso di vinili. come al solito. Certo, E ma perché quindi. era dell'ultima mandata, eri andato a prendere da casa dei tuoi genitori. Sì, cioè in realtà ci ho infilato pure un disco mio a sto giro. Vabbè, ma quello lo sappiamo io e te, ora ci Vabbè, sono i microfoni chiusi, no? no, io Hai non riesco a non essere sincero fatto bene, mettiamo le carte con il in nostro tavola pubblico, si subito. merita tutta la mia sincerità. Giustamente. Però Mellencamp, secondo me, è dei tuoi. Sì, questa sì. Sì, mi sembra che è l'ultimo che mettiamo che è mio, ma non sono sicuro perché ora non mi ricordo, ma secondo me Guarda, guarda. l'ultimo è roba mia. Belle Non anticipiamo niente. Comunque loro Team sono. sono personaggi anonimi quasi, Chi è? cioè chi li conosce No, questi? Mellencamp alla fine poi ho scoperto, andando un po' a scartabellare, che hanno avuto anche, non solo questo di successo in classifica, ma anche un altro successo che si chiama Starting All Over Again nel 72, una volta passati alla Stax. Ah, perché loro infatti Sono si sono rientrati passati in tutte queste etichette classifica, sì. molto fighe. La Stax faceva cose molto belle. Esatto, Sì. assolutamente sì. E infatti il primo disco è quello che stiamo per far sentire, che è Backfield in Motion, è del 1969, è stato il loro primo successo, è arrivato addirittura al numero 3 della classifica Rhythm and Blues e al numero 10 della classifica pop nel Perché loro venivano 1969. da un paesello sperduto nel Mississippi, in realtà. Mi sembra di ricordare questa cosa. Questo al momento lo ignoro, non lo so, Sì, ma può io darsi, può credo di sì, essere. che fosse un duo soul che veniva da quei paeselli sperduti lì, poi è andata a Chicago e ha fatto fortuna lì. Esatto, che ha avuto anche, insomma, due grandi successi da milioni di copie, anche se magari da noi non erano poi così conosciuti. E Vedi, io dicevo che sono anonimi, sei sempre queste invece figuracce, Mellencamp devo qualcosina imparare a l'ha moderare le fatto. parole quando parlerà. Soppesale, soppesale. E sentiamoci Mellencamp, primo disco per questo Basement Records di stasera. Wombat. Oh, my God. wheel in motion. Yeah, I'm gonna have to penalize you. Backfield in motion, baby, you know that's against the rules. Offside and hold it, yeah, you ought to be ashamed of yourself, baby. Offside and hold it, yeah, hold it on to someone else. You know you cheated, baby, faking the foul. You know you're balking, baby. Oh, yeah. Strike three, you're out, and I caught you with your backfield in motion. E questi erano Mel and Theme con Backfield Emotion. Dicevamo proprio molto bubblegum, no? Questo sì, allegrotto, allegrotto, allegrotto. Infatti, sbarazzino proprio, direi. Un po' pop, infatti è diventato sì, una hit questo. Sì, sì, infatti si vede, era destinato alla classifica, eh? Ora, il prossimo invece ci avviciniamo verso dei grossi nomi. Esatto. Ma in realtà no. Cioè, il nome è grosso perché è conosciuto un sacco, ma non per lui stesso, insomma, in quanto tale. Per un parente. Per un parente, sì. Che è il fratello David, però noi ci andremo a sentire stasera perché noi non siamo quelli che ci piacciono le cose scontate così. Lo volevo portare la prossima volta, in realtà. Appunto, teniamocelo per la prossima volta, perché appunto stiamo parlando di David Ruffin, dei Temptation. Nomone. Un nomone davvero. E invece noi questa sera vi proponiamo Jimmy Ruffin, che comunque fratello, ha avuto una carriera lunghissima, assolutamente, poi anche assolutamente dignitosa, tra l'altro. Non ai livelli del fratello, però direi se è difesa assolutamente. Perché lui era un bene. Po' più canonico. Cioè lui è rimasto attaccato al, diciamo, al genere soul, praticamente tutta la vita. Cioè sì, la sua carriera invece è andata avanti un po' tutta la vita, fasi alterne, però ha sempre prodotto roba musica soul, sì. 100%. Tanto come il fratello, anche lui era diventato un nome della Motown. Esatto, con i Temptation. E poi è andato a sperimentare altre strade. Il buon David. Jimmy poco. Jimmy è Jimmy non era un gran rimasto, sperimentatore. Era rimasto una di quelle certezze. Esatto, una certezza. Ortodosso. Vai, io adesso mi metto a mettere il disco, perché questa sera abbiamo un setup complicato. Esatto. In quanto il nostro centrino è in realtà un pezzo di cartone che ho forato per l'occasione proprio prima di iniziare. E quindi mi ci vuole un po' più di tempo del solito per cambiare e mettere i dischi. I nostri fedeli ascoltatori ormai saranno abituati a questa, che ormai credo che sia un marchio di fabbrica di Basement Records, la perenne lotta con il centrino del 45. Perché la gente se li ruba. Cioè, quanti ne avevamo due? Non ce n'è neanche più uno. Non ce n'è più neanche uno. Io anche quello che avevo a casa mio personale l'ho perso. No, sì. Quello bello? Eh sì, infatti volevo venire con pensavo quello. Pensavo te ne fossi scordato di portare. No, no, no, proprio l'ho perso. Ah, l'ho salato a mettere i dischi da qualche parte. No, la maledizione dei centri da 45. Sì, erano in continuazione. E quindi ho deciso... No, il fato è contro di noi. Basta, ora li rifacciamo con i pezzi di cartone. Almeno si perdono, sì, pazienza. Sì, e chi se ne frega. Le si fa sentire la grande hit di Jimmy Ruffin subito. Almeno poi gli presentiamo la seconda. Io ce l'ho piace pronta, di più. Io ce l'ho pronta. Dai, sentiamoci allora. Questa è stata la sua grande hit della carriera del 1966, What Becomes of a Broken Hearted. Un po' emozionato. Cagliamo, cagliamo, perché si è un po' emozionato il nostro Jimmy Ruffin. Ma più che altro saltellava di qua e di là. Non so, avete sentito questi che ci stavano perfetti in realtà. No, era, sul disco. Era l'effetto psichedelico di Wombat, certamente. Che facciamo appositamente con dei centrini costruiti proprio rigorosamente autocostruiti. Per dare l'effetto psicadelia. Cioè tutto è perfettamente studiato fino ai minimi dettagli. E solo con dei centrini che anche se sono di cartone non sono psicoattivi, Teniamo a ricordarla questa cosa, Però dai, raccontiamo la storia di questo aneddoto di Jimmy Ruffin. Perché Jimmy Ruffin appunto era andato insieme al fratello all'audizione per sostituire Elbridge Bryant dei Temptation quando decise di lasciare la band, e appunto ci andarono insieme, però gli altri componenti dei Temptation gli preferirono il fratello più giovane David, e poi come abbiamo appunto detto ha avuto... Più giovane di 5 anni. La sua sfolgorante carriera, però... Si vede che aveva la vocina più... Sì, che si adattavano, non so, magari cercavano un particolare tono vocale nei Temptation, essendo visto che erano, mi sembra erano in 4 o in 4 o in 5, non me lo ricordo. Comunque, quando Ognuno doveva iniziano. avere la sua tonalità In realtà, comunque. quando iniziano i Temptation, non sono i Temptation molto sperimentatori ancora, ma No, ancora no, sono all'inizio era proprio ancora i molto. classiconi. Anche Sì, loro sì, sì. facevano doo-wop, Sì, venivano soul, assolutamente dal roba così. doo-wop. Sì. Però Quindi si appunto. presentavano in questa maniera, Ma ognuno probabilmente. aveva il suo timbro, sicuramente non. Quando ci sono più voci, insomma, si E hanno devono. preferito il giovanetto. Hanno preferito il giovanetto, magari gli piaceva di più il suo tono vocale. E ora che si va ad E ora ascoltare il lato sentiamoci B. il lato B di questo grande successo che noi ne parlavamo prima fuori onda. A noi piace parecchio di più Sì, Magari ha retto meglio la prova del io tempo. l'ho riascoltati prima di venire qua Sì. e in realtà volevo far sentire questo lato qua. Poi Sì, si è detto, vabbè, non ne abbiamo tanti dischi, stavolta facciamoli sentire tutti e due, poi l'altro è la grande hit. sì, E quello è quindi il. vabbè, facciamo Però il cameo. questa Baby I've Got It è veramente tanta roba. Sempre di Jimmy Ruffin, Spaceman Records. Decisamente più up tempo Più allegrotta, era più in linea con il primo pezzo che questa abbiamo Baby fatto I've sentire. Got It. Sì, però dai, valeva assolutamente la pena anche di far sentire la grande hit, dai. Sì, no, ma è tutto Ci molto stava, ci bello. Tutto stava. quello che facciamo sentire è Tut, sempre tut, tutto tutto, molto tutto è bello. bellissimo, tutto è Sì. bellissimo. Ora però abbandoniamo le vicende e i ritmi allegrotti. Dai, non l'infamare, Ma non povera. l'infamo, però è vero, cioè, di fatto questo è un pezzo molto più triste, è Sì, una canzone d'amore di una con persona che ci ha 3 M, di avuto un sacco di amore. vicende tristi nella sua Sì, ne esistenza. è stata proprio. Non Cioè, è no, stata è stata. fortunella. Ma in certi ambiti di più, in certi ambiti di meno, è Sì, dal stata molto punto fortunata. ambito della carriera è andata Sì, bene, in però ambito. non ha passato un'esistenza felice. No, Dal punto di vista decisamente no. esistenziale era, diciamo, molto Una tormentata. persona che tenta 2 volte di suicidarsi. E l'altra ci riesce più che altro. Nella seconda c'è riuscita. Sì. Ma poi c'ha avuto tante altre vicende brutte. Di chi parliamo? Stiamo parlando di Dalida, se no non vi facciamo aprire niente. Stiamo mettendovi questi punti interrogativi senza farvi sapere di colei di cui stiamo per andare a parlare, ovvero di Dalida, che non si chiamava Dalida, ma si chiamava Yolanda Cristina Gigliotti. Anche se nata il Cairo nel 1933, è di chiare origini italiane, assolutamente Però di in realtà genitori vive in Francia italiani. quasi tutta la vita, credo. Sì, ma Con fasi alterne quantomeno in Italia. fino all'adolescenza è rimasta in Egitto, al Cairo. Poi, una volta che ha raggiunto una certa notorietà, soprattutto dopo aver vinto concorsi di bellezza in Egitto, è stata anche Miss Egitto. Dopo Miss Egitto gli sono state aperte le porte del cinema e ha iniziato a lavorare come attrice e dopo i primi film in patria in Egitto decide di tentare seriamente la carriera di attrice ed emigra a Parigi, Giusto. dove, insomma, oltre che a affermarsi come attrice, diventa anche una cantante molto famosa, ha veramente una carriera molto molto lunga, anche perché una delle particolarità di Dalida, cioè almeno per il mio caso, è perché me l'ha fatta conoscere un mio amico palestinese, perché appunto mi diceva: ma come, questa è una cantante italiana che nel mondo arabo è famosissima, lo conoscono tutti, è proprio un classico, e te che sei italiano non la conosci. Allora ero andata a cercare chi era Dalida, e ho scoperto che alla fine ha cantato in un sacco di lingue diverse. Ha cantato in arabo, ha cantato in italiano, ha cantato in francese. Una, insomma, poliglotta, oltre a essere attrice, cantante, appunto, era veramente poliedrica, diciamo, In la Italia Dalida. conosciuta in realtà per una forse relazione, Una, non si sa, non si sa, presupposta, non si sa presupposta perché relazione, dopo potrebbe alla anche, fine alcuni insinuano che in realtà fosse soltanto una trovata pubblicitaria della casa pubblicitaria, sì, discografica, visto che lei cantava a Sanremo una canzone scritta da e Tenco. la cantava insieme a Sì. Tenco nel 1967, esattamente. La Quando canzone si... era Ciao amore mio. Esatto. Esatto, e non andò a finire molto bene No. perché la Fu canzone eliminata alle fu semifinali. eliminata alle Non si semifinali. capisce bene perché, se per questa cosa, no, io non credo, perché Tenco non mi sembrava un personaggio proprio che si ammazza solo perché lo eliminano da Sanremo, però insomma... C'aveva, no, magari non solo per quello, però magari Esatto. c'aveva anche degli accumuli precedenti. E insomma, E comunque Tenko s'ammazza in albergo. Tenco si fa fuori E tra l'altro lo trova lei. e lo trova lei, e ovviamente, come potete immaginarvi, non è che l'abbia presa un granché bene. Infatti poi poco tempo dopo tenterà il suicidio nella stessa stanza di dove era stato ritrovato. No, non era la Non era stessa. la stanza, era Era nello nello stesso stesso albergo, albergo. no, era lo stesso albergo dove soggiornava Tenko quando stava a Parigi. Mi sembra una roba del genere. Cioè, so che lei si organizza, no? Si organizza, architetta questo suicidio, dice alla famiglia che andava in Italia, poi in realtà va in un albergo, Ah, allora vedi, mi sono che perso era lo qualche stesso, pezzo. mi sa che era lo stesso dove soggiornava Tenko, ma non è lo stesso proprio dove lui si è ammazzato, almeno se potrebbe essere una cavolata questa, però io ho questo ricordo. E poi tenta di ammazzarsi con i barbiturici. Però mi ricordo che l'ha salvata, sì, con i barbiturici, e l'ha salvata una cameriera. Sì, perché trovava sempre la stanza chiusa, se ne sospettita, aperto, e l'ha trovata ancora in tempo per Per ripigliarla. salvarla. Lei comunque non Esatto. finiscono qua le vicende tristi, perché dopo poco dopo questa roba, mi sa che viene in Italia e inizia una relazione con un tale che la mette incinta, ma lei decide di abortire. Ah, questa non la sapevo. Sì, decide di abortire. E poi comunque la sua vita è tutta costellata di suicidi, cioè tipo lei si era sposata abbastanza giovane, poi Sì, quello aveva sì. Il primo divorziato, matrimonio era ma in stato questo periodo abbastanza qua, giovane, sì. cioè poco dopo l'aborto, in questo periodo qua, mi sa che lei gli muore l'ex marito, anche lui, per un suicidio Cristo, Dio, sostanzialmente. ma Ma cioè. non è l'unico suicidio della sua vita, ce n'è pure un altro, perché lei poi a un certo punto si mette, mi sembra tipo con un filosofo, a un certo punto della sua vita, questo qua si lasciano a un certo punto, 2 anni dopo il filosofo si ammazza insieme alla compagna attuale, cioè quella Sì, ho del capito, ma, dopo. cioè, ma allora la nostra amica Dalida è peggio della signora Fletcher, cioè. È per quello che dicevo che dal punto di vista esistenziale ha avuto una Madonna. vita parecchio, parecchio sfigata in realtà, cioè una gran Miseria. carriera, però poi. No, ci credo fosse ammazzata anche lei, alla fine. Sì, sembrava il club dei suicidi proprio, cioè. A chi tocca ora, eh? È così. E il pezzo che andiamo ad ascoltare non mi ricordo già più qual è, però è un pezzo Ci siamo triste anche questo, perché io ho divagati. questo 7 pollici che potete È trovare anche il in mio giro. male 6 Esatto. Che nell'altro lato c'è la hit, quella Bang Bang. di Nancy Sinatra, Esatto, e però noi noi non abbiamo. ascoltiamo quello, forse non lo so, ora vediamo se ascoltate tutte e due o no, però avevo scelto l'altra perché Sì, mi sembrava più intanto in linea con la sì. sua dimensione esistenziale. Essenziale. Sì. Bene, allora questa è Dalida con il mio male 6. Basement Records. Il mio male sei solamente tu. Quando cominciò non ricordo più e neppure so come né perché. Io so solo che il mio male in te, il mio male ormai, sarai sempre tu, ma tu non saprai quel che provo in me. Se te lo dirò, tu non capirai. E ho paura che riderai di me. Chiederti di guarire mai. La faccia la prende bene, insomma, Wow, sì. eh. Meno male che i prossimi sono Allegrotti. Ah, Cioè, pensa se chiudevamo così. no, Cioè, pensa se questo era l'ultimo disco. Madonna di sabato sera. Mi si sarebbe veramente voluto male, devo E dire. invece no. E invece Invece noi vi torniamo vogliamo subito bene a Allegrotti. bomba. E proseguiamo allora con i The Champs. Questa volta band rock and roll americana della fine degli anni 50, che ha avuto anche, tra l'altro, un numero uno in classifica nelle classifiche americane. Una band molto danzereccia, i The Champs, che è la hit con cui sono andati primi in classifica. Si chiamava Tequila, uno Ah, strumentale, tra l'altro. famosa. Però quella non ce l'avevo. Noi mettiamo cose più da outsider. Più Sì, no, quella sarebbe stata troppo scontata, non ti sembra? underground. Queste sono estremamente più underground. Credo di sì. Sì, dai. E queste, invece, queste due canzoni, le facciamo sentire tutte e due o solo Sono una? molto brevi, quindi io sì, le Io le farei farei sentire sentire entrambe, tutte e sì. due. Sono entrambe estratte dall'album del 1958 Everybody Rockin'. Infatti, con molta fantasia, entrambe ci hanno scritto Rocking nel Sì, titolo. no, visto che era abbastanza agli esordi, diciamo, il nuovo genere, come tutte le volte all'inizio, quando nasce un genere nuovo, va Si sdanno un po'. rimarcato nel titolo, perché anche solo quella parola nel titolo è già uno spot pubblicitario. Quando venne fuori cioè, con lo stomp, il foxtrot, il jazz, il blues, ha funzionato per tutti i generi, quindi Quindi siamo lo canonici in swing, questo. sì, assolutamente canonico, sì, è proprio una cosa. Io il primo prezzo che ho messo lo potremmo dedicare a una DJ della radio, Vladimiri. Assolutamente sì, Perché i lati sono due, ma è capitato quello. visto che il primo che faremo sentire è proprio Rockin' Mary Vai, lo preparo. dei The Champs. Ah, allora O vuoi intanto raccontare ancora? Io possiamo. ce l'ho pronto, devo solo fare play. Allora ascoltiamocelo. E poi ci ascoltiamo l'altro e in mezzo raccontiamo due Sì, cavolate. dai, Vai. partiamo. Via! The Champs with Rockin' Mary. Madonna, com'è roccheggiante, come sono roccheggianti questi The Champ. Visto come ci siamo ripigliati, Subito. cioè rispetto Ti mette a subito. disagio, Ti mette. Il disagio disagio esistenziale, esistenziale. ora abbiamo il disagio rock and roll. Ora il fatto che non riusciamo a stare fermi. Sentite scricchiolare le sedie? Sì, ma quello è per colpa dei microfoni che fanno schifo, Fabio. Non sveliamo questi trucchi. Ah, sì. Questi trucchi che Anche usiamo, quello è un grazie effetto, è un all'esperienza. effetto, non è una sedia che cigola davvero, è soltanto un effetto. Cioè, con tutta la pazienza che abbiamo fatto per È creare il come circuito elettronico, per fare l'effetto sta psichedelico distorsione. dato dal nostro centrino Esatto. autoprodotto. Madonna, come siamo psichedelici stasera? Accingiti, Io mi accingo a preparare quindi l'altro lato. accingiti. E comunque, non hanno avuto grandissimi successi questi The Champ. Un'altra loro hit è datata nella fine degli anni 50 e poi sono un po' spariti dai radar della musica internazionale. Io però penso di avere in realtà nella collezione del mio babbo almeno altri due o tre dischi loro. Addirittura? Sì. Allora praticamente forse c'ha la discografia. Secondo me completa. Perché erano un bel gruppo da jukebox. Sì sì, no, effettivamente. Dai, cioè, quanto era bella il pezzettino di prima. Musicalmente, cioè, te non ce la metteresti la monetina per sentire questo? Sì, sì, sì. Non puoi, non ci sono però più jukebox. Però è un... cioè, come tipo di sonorità è molto canonica del periodo, comunque. Sì, non brillavano per originalità. Infatti abbiamo detto che stiamo nell'ortodossia. Sì, sì, assolutamente. Va bene, quindi ascoltiamo anche l'altro lato. Sì, sì, sì, sì. Titolo? Everybody's Rocking, sempre The Champ, Basement Records. Everybody rocking, everybody rock and roll. Everybody rocking, everybody rock and roll. Everybody rocking just to save their doggone soul. Well, everybody rocking, everybody rock and roll. Everybody rocking, everybody rock and roll. Everybody rocking just to save their doggone soul. Questi Champs spaccavano proprio. Hai altro sentito? Che... ha solo di batteria, ha solo di contrabbasso, questo pezzo, probabilmente. Questo pezzo vola. Bellissimo. Bellissimo. Questo pezzo ortodosso, vola, ma bellissimo. E pensare era... allora, la prossima volta porto anche gli altri. Assolutamente sì, li voglio sentire anche solo per curiosità. Cioè, se pensi che alla fine sono fine anni 50... E comunque roba, tutta roba strumentale. Tanta ci roba. Ci va un po' a sostituire il nostro grande classico di queste settimane, visto che non ci avevamo Perez Prado. Davvero? Che è un altro livello, è un altro livello. Però comunque musica strumentale anche questa. Sì, sì, sì, no. Ci sta sempre, ci stanno sempre i pezzi strumentali qui a Basement Records, specialmente in questa ultima mandata di vinili, No, comunque ci stanno sempre... No, questo addirittura... Questo lo sentirete meglio di tutti gli altri perché ha il centrino incorporato. È autocentrante. Io non ho mai capito perché comunque non li facevano tutti così. Cioè, perché c'hanno quelli col buco grosso e quelli che invece li fanno già al centrino? Jukebox. Ah, perché nel jukebox questo è troppo difficile. No, cioè, centrarlo... L'aggancio del braccio del jukebox... Ah, se lo trascina, ho capito. Foro... O non potevano fare jukebox con il foro piccolo? Non ci avevano pensato. Questa è una cosa comunque che studierò. Cioè, questa è una di queste domande da fare, capito, all'internet, lì, perché? Magari era una questione puramente tecnica. No, senz'altro sarà una roba di design tecnico, ma noi la dobbiamo sapere. Ma non la sappiamo. La prossima puntata vi sveleremo questo misterioso mistero. Dobbiamo indagare su questo mistero. Ora, il prossimo disco in realtà è mio, non è del mio babbo. questa volta ho dovuto pescare perché stavamo esaurendo la scorta, e quindi ho pescato tra i miei, però ho preso una cosa di cui io non so assolutamente nulla, e quindi è come quello del mio babbo. Questo testimonia ancora di più la buona fede del nostro buon Ginox. Sì, sì, io ho detto subito la verità. Non è che è andata a scegliere la bomba, dice no, sai che fui furbo, prendi il pezzone e poi dico guardi babbo come spaccava. No, no. Ci ha preso uno dei suoi, ma a caso. Completamente a caso. L'unica cosa che ricordo è che comunque è tutta roba soleggiante, che sono diventati poi classiconi del Northern Soul. E mi ricordo questo Soul Sahara, penso di averlo messo anche una volta, che è bellino perché strizza un po' l'occhio al funky. È un Northern Soul molto funkeggiante. Quindi abbiamo già, visto che l'ho nominato, adesso dobbiamo iniziare con questo lato. Direi proprio di facciamoglielo allora, sentire subito. Ora io mi allontano subito, 2 minuti di sistemazione. Accidenti. 30 secondi, 30 secondi. Oh. Cioè, ora 2 minuti te l'hai ripresa proprio larga, Sì, è vero, facevo anche la pipì, andavo a bere qualcosa, poi tornavo con calma. No, devi reggere solo 30 secondi. Sì, sì, no, alla fine, sì, è Johnny Johnson, però il nome del gruppo completo è Johnny Johnson and the Bandwagons, ed era... cioè una band attiva soprattutto nella fine negli anni 60, e ha fatto qualche cosina anche all'inizio dei 70. Hanno avuto anche un discreto successo di classifica, niente di clamorosamente eclatante, però ad esempio nell'ottobre del 1968 andarono per la prima volta in classifica in Inghilterra con il loro singolo Breaking Down the Walls of Heritage. Vero, infatti in Inghilterra. Perché, in Inghilterra sono inglesi. Perché essi infatti diventano un classico del Northern Soul. Northern Soul. Infatti mi sa che sono stati prodotti anche dalla B2 Records, che è una roba che nell'ultima fase del Northern Soul, sì, nell'ultima fase del Northern Soul era un'etichetta che sfornava parecchie hit. L'avevi già portato, tra l'altro. Sì, avevo portato roba della B2 Records, sì. Non mi ricordo se la puntata prima, cioè della precedente, una delle nostre ne abbiamo fatte 3 o 4, quindi in una di queste secondo me ho portato roba, e loro sono abbastanza convinto che abbiano inciso per la B2 Records. Tanto non li conosce nessuno, posso dire quello che voglio, sì, capito? Sì, cioè, assolutamente, dai. E andiamoci allora a sentire subito questa Soul Sahara. Soul Sahara. It started way dance. And girls, they call it the rhythm and the blues. Quanto è funkeggiante il nostro Soul Johnny Sahara, Johnson. Eh? Mamma mia. Capito, non è Sahara che si inventavano. Tanta roba, ecco. L'altro lato in realtà non è così, è più up tempo. Vabbè. È più Northern Soul classico. Anche perché è una, ora lo sveliamo, ma è una cover di Bob Dylan. Davvero? Eh sì, davvero. Meno male lo sai te, io non sapevo niente. Io mi metto nell'angolino a prepararlo, no, allora, in punizione. Lo assolutamente, anche te. Canzone che tra l'altro al suo esordio discografico neanche l'ha cantata Dylan, ma la fece cantare alla sua band, ovvero a The Band. Ah, ma ecco perché l'avevo già sentito il titolo. Perché Mr. Tambourine Man, ora mi torna. Ecco perché dico, ma questo titolo io lo conosco, è famoso. Perché è una cover. Vedi la mia ignoranza musicale. Dylan, che poi aveva appunto dato per l'esordio della The Band. Quindi questo non è un pezzo loro. Possiamo dire che è la cover Northern Soul di un pezzo di Dylan. Certo, sì. Ora speriamo che sia Northern Soul davvero, non so io come lo sono immaginato, però. No, è up tempo. No, no, no, secondo no. me è, sì, up tempo. Assolutamente lo vogliamo mettere. Io ce l'ho pronto perché questo è facile, perché appunto non ha bisogno del nostro centrino. Ta-ta. Esatto, non ci sarà il purtroppo l'effetto psichedelico del esatto, no, però tanto. Però sul pezzo di prima funky effettivamente ce l'ha fatto gustare il fatto di avere il centrino preciso. Sì, cioè vero. Vi ha fatto ascoltare quello che potrebbe essere se noi avessimo il centrino, li avessimo persi tutti. Ci sarà il fantasma del centrino a Wombat? No, secondo me proprio la gente li ruba. È come gli accendini, no, io non so, fanno l'effetto accendino. Cioè lo vedi sul tavolo, zacchi in tasca. Se è come gli accendini a un paio di persone c'ho da chiedere, allora. Dopo ricordamelo perché. Ma vedrai, se funziona come cioè, con non gli è che siamo così tanti interessati a questi oggetti, eh. Cioè, qui secondo me se andiamo a cercare nelle case ne spuntano fuori di centrini. Ladro maledetto, questo lo riconosco, era il mio. No, noi non c'è frega, noi abbiamo il nostro centrino di cartone. Quando finisce ne facciamo un altro. Assolutamente. Vedi? No, ci piace così, è anche molto più punk. Vedi? Vai, allora ascoltiamo il pezzo di chiusura, poi i saluti. Assolutamente, sì. Mr. Tambourine Man di Johnny Johnson and the Bandwagon. Tambourine man, play your song, stop. bella anche questa versione. Visto che era un po' più saltellante. Sì, ma io tanto sì, l'originale non la so. Cioè io mica lo so come fa. Tambourine Man, con quella chitarra jingle jangle sotto. Ma è la colonna sonora di film famosissimi. Tutti. Ci sarà anche nel laureato. L'avranno messa. No, non c'è. Boh. Non lo so, perché io quando parlo di una colonna sonora tento sempre di buttarla nel laureato, che secondo me è il film che raccoglie tutti. Ah, tutti pensavo i pezzi con la colonna sonora più lunga della storia del cinema. Vedi, ci sono tutti lì. No, non lo so, ma ho visto che comunque fai sempre la tua porca figura a dire: ma non era nel laureato? Tirare fuori qualche citazione ancora più che ne so. Più stramba? Sì. Ma poi non me la gioco. È vero. Cioè, che poi tanto la maggior parte della mica lo sa. Ti dicono: ah sì sì, probabilmente sì. E quindi comunque tu hai fatto la tua porca figura, hai retto la conversazione. E se trovi uno che ti dice: ma che cazzo stai dicendo? E beh, mi butto pancia all'aria. Faccio finta di essere morto. Esatto. Basta, siamo arrivati a termine. Dobbiamo salutarci. Dobbiamo salutarci e lasciarvi al vostro proseguo del sabato sera, sì, sperando di avervi allietato nella vostra fase iniziale della vostra uscita o della vostra permanenza in casa, se state stati in casa. Perché noi prima li abbiamo allietati con i primi pezzi, poi li abbiamo depressi per poi ripigliarli così, capito, e concludere. Ma è così che deve essere un DJ set. È certo. Tu mi insegni, certo. Non è che deve essere piatto tutto, ci deve essere in un DJ, una selezione di dischi ci devono essere vari momenti, gioia e dolore nella festa. Esatto. Se non c'è il dolore, come fai a apprezzare ancora di più la gioia dopo, capito? Vedi, siamo sulla stessa lunghezza. Vedi, perfetto. Vedi? E allora buon sabato sera qui dagli studi di Radio Wombat, da Ginox e da Dalai Lama. Ciao. Ciao e alla prossima con Basement Records, Radio Wombat. All we hear is Radio Wombat, Radio Wombat, Radio Wombat. All we hear is Radio Wombat, Radio Wombat.